ad alta voce. Valerio Aprea legge La ricreazione è finita di Dario Ferrari. Anno zero. Ci sono decisioni che segnano la piega che prenderà tutta una vita e io finora quelle decisioni le ho sempre prese a caso. Se avessi dovuto scegliere 5 minuti dopo, avrei potuto tranquillamente fare l'esatto contrario e non credo di aver affrontato nessuno snodo fondamentale della mia esistenza con una pur remota forma di ponderatezza e in vista di un obiettivo a lungo o anche medio termine. Tendenzialmente cerco di non muovermi, di procrastinare fino a quando tutte le possibilità sono evaporate e posso finalmente tornare a crogiolarmi nel mio bozzolo di inconcludenza. Oppure mi lascio trascinare dall'inerzia e a un certo punto mi trovo ad aver fatto qualcosa senza aver mai realmente deciso di farla, cullato da una rassicurante bambagia di irresponsabilità. Un paio di anni fa mia madre, in preda a un'effimera fascinazione per l'Oriente, mi ha semicostretto a leggere un libro in cui, tra le altre cose, si illustrava un tratto tipico della mentalità cinese. Anziché agire in vista di uno scopo, il saggio lascia che le circostanze lo portino dove vogliono loro, senza incaponirsi alla maniera occidentale a voler essere per forza l'artefice del proprio destino. Se questa cosa è effettivamente come l'ho capita io, quindi il punto non è che sono pigro, ma che sono praticamente il modello del saggio taoista. Il fatto che sia finito a fare un dottorato di ricerca non fa eccezione. A volerne ricostruire le origini si trova tutt'al più un accrocchio di contingenze fortuite, di posizioni sostenute al di là della ragionevolezza, per mero puntiglio, e una congenita incapacità di valutare le conseguenze delle mie azioni. Non sono uno di quelli che ce l'hanno scritta nel DNA, la carriera accademica. A parte l'abitudine alla lettura, che ho mantenuto nonostante non la condividessi con nessuno dei miei amici, e nonostante mio padre le fosse apertamente ostile, sono stato uno studente universitario piuttosto mediocre. La mia unica forza era il mestiere. Intuivo, fin dall'inizio, quello che un professore voleva sentirsi dire e studiavo solo le cose che mi servivano per dire esattamente quello, non una parola di più. Avevo il fiuto di capire quali lezioni frequentare e a quali lasciare la firma di presenza e poi dileguarmi. Presentivo quali libri in programma si dovevano leggere e per quali bastava la quarta di copertina, e sapevo individuare a colpo sicuro la studentessa con gli occhiali a cui chiedere gli appunti. Alla fine ho galleggiato quasi sempre così, profondendo molta più energia e materia grigia nel capire cosa potessi evitare di fare che nel fare qualcosa. Mi sono laureato in lettere poco più di un decennio dopo l'iscrizione, con una tesi su Kafka, un po' perché l'esame di letteratura tedesca era uno dei pochi che avevo studiato con piacere e un po' perché il professore era un vecchietto minuscolo e appassionato che mi aveva fatto subito simpatia. La tesi non era un capolavoro, però tutto sommato è stata la parte più gradevole dell'università. Talmente gradevole che me la sono portata dietro per quasi 3 anni e nel frattempo ho pure dovuto cambiare relatore perché il vecchietto minuscolo e appassionato è morto. Alla fine ho discusso la tesi con il nuovo ordinario di letteratura tedesca, un maschio alfa di mezza età altissimo e sempre incazzato, con cui è stata insofferenza reciproca a prima vista. Dopo la discussione sono caduto in uno stato di torpore esistenziale e per la prima volta in vita mia ho cominciato a sentire il peso dell'età. Al giro di boa dei 30, riflettevo, i miei genitori avevano fatto un sacco di cose. Figli, lavori, mutui, animali domestici. I miei nonni avevano fatto la guerra e ricostruito il paese e i miei bisnonni erano morti per la spagnola. Io non solo non avevo fatto nemmeno una di queste cose, ma mi sembravano tutte inconcepibilmente lontane dai miei orizzonti. Tuttavia, mi ero sempre detto, è oggettivamente assurdo paragonare le generazioni tra di loro. Nonni e bisnonni dovevano fare le cose in fretta, prima che un bombardamento o il vaiolo li strappassero agli effetti dei loro cari. E i nostri genitori non avevano internet, Ryanair e Pornhub. A un certo punto le opzioni si esaurivano e restavano famiglia e carriera. Ogni generazione fa storia a sé. Noi abbiamo un'adolescenza ventennale, ma sappiamo fare cose che i nostri nonni se le sognavano, come prenotare una vacanza in 10 minuti e memorizzare un numero vertiginoso di combinazioni di tasti per giocare a PES. Purtroppo però, di punto in bianco, anche i miei coetanei hanno cominciato a diventare adulti. Ragazzoni imbecilli e ipertatuati che fino a un minuto prima si nutrivano solo di spinelli king size e di merendine per ammazzare la fame chimica, i cui orizzonti si esaurivano tra calcetto e fantacalcio e che tiravano mattina a ciondolare tra i locali per evitare l'onta di rientrare a casa prima dell'alba, da un giorno all'altro hanno cominciato a presentarsi con la fede al dito e la prole al seguito e a incarnare i valori della famiglia tradizionale. Certo, io lo so che sono ancora gli stessi ragazzoni imbecilli, lo so che la loro felicità dipende ancora esclusivamente dai risultati della Juventus, lo so che la loro iscrizione al popolo della famiglia è un fuoco di paglia e che i loro marmocchi si troveranno con un numero esponenzialmente crescente di genitori, man mano che quelli naturali si lasceranno e si riaccompagneranno e poi si lasceranno di nuovo e si riaccompagneranno e così via all'infinito, realizzando infine l'utopia platonica di una comunità in cui ogni bambino è figlio di tutti. Lo so, eppure questo precipitare di eventi non sono riuscito a lasciarmelo scivolare addosso come tutto il resto. Sono invecchiato di colpo. Anche i ragazzini, quelli nati negli anni 90, li incontri in giro con il SUV, il borsello e il riporto e ti parlano con cognizione di causa di commercialisti, Euribor e miniclub. È così che sono passato dall'eternità della giovinezza all'horror vacui della senilità, perdendomi le tappe intermedie. E più mi sento invecchiare, e più all'orizzonte vedo stagliarsi la mia personale versione dell'orologio biologico, l'immagine di mio padre che vuole che io erediti il bar di famiglia. Io l'ho giurato a me stesso e a lui, nel momento in cui ha mollato mia madre e me, di conseguenza, che il bar Gori non lo avrei preso neanche morto. E ormai è sempre più chiaro che lui sta aspettando che il mio cadavere di laureato in lettere gli scorra davanti per potermi intrappolare e costringermi a perpetuare la sua microimpresa personale. Forse per togliermi di dosso questa sensazione di irresolutezza e di minaccia incombente, decido di fare un giro a Pisa. Da Viareggio ci si arriva in una 20 minuti di treno, anche se agli occhi di qualsiasi viareggino ai confini della città si erge un'imponente barriera mentale che consiglia saggiamente di non allontanarsi mai, giacché al di là dei confini del comune non può esserci niente di buono. È ancora inizio settembre. L'invasione di ritorno degli studenti fuori sede deve ancora cominciare e ho pensato che indugiare un po' per i baretti di Piazza Dante, dove ho sbriciolato la maggior parte delle mie giornate di universitario, possa in qualche modo illudermi che per il passaggio all'età adulta ci sia ancora tempo. Appena aperto il giornale, mi spunta di fronte Carlo, l'assegnista del Dipartimento di Italianistica che mi ha interrogato per l'esame di letteratura italiana contemporanea e che mi ha meticolosamente massacrato, dopodiché siamo rimasti amici. si ferma a prendere un caffè e mi aggiorna sulle vicende interne al dipartimento. La tizia che va col prof, quello che vince un dottorato alla Cornell e manda tutti liberatoriamente a fanculo, l'ex direttore di dipartimento a cui hanno trovato un tumore alla prostata, il dottorando a cui dopo anni di angherie accademiche è venuto l'esaurimento nervoso, la segretaria che ancora non ha smesso di nascondere a bella posta tutte le carte del professor Lanza come atto di accanito quanto disinteressato bullismo. Poi passa a illustrare le lotte intestine per il concorso di dottorato di quest'anno. Ai tempi in cui lo ha fatto lui, in tutta la facoltà di lettere, c'erano all'incirca 25 borse di dottorato. Oggi ce ne sono 4 e vanno spartite tra i 6 dipartimenti. Come se non bastasse, una delle 4 è destinata all'Università di Firenze, dove i dottorati in lettere sono sospesi fino a data da destinarsi. «Ormai la maggior parte dei professori te lo sconsiglia di fare il dottorato», dice Carlo. «Eh, lo so, ti dicono di andare all'estero. Infatti, come se l'estero fosse un posto a cui puoi mandare il curriculum. Se proprio volessero, dovrebbero dirti dove andare, a chi scrivere. Ma non ne hanno idea nemmeno loro. Pensa che Sacrosanti, dopo la laurea, mi consigliò di provare a cercare qualcosa a Berlino, che per le cose che studiavo io era il non plus ultra. Peccato che a Berlino ci saranno 40 università». Io sorrido, ma, come spesso accade quando lui mi racconta queste cose, non ho chiarissimo dove voglia andare a parare. Insomma, ora i prof preferiscono non averci a che fare coi dottorati. Non è più un campo in cui i baroni vogliano esercitare il proprio potere. Però c'è qualcuno che ci è affezionato a queste piccole schermaglie per vedere chi ce l'ha più lungo. Tipo Sacrosanti, dico io, che in realtà un po' lo so dove gli piace andare a parare. Il chiarissimo prof Sacrosanti è una sorta di dominus della facoltà di lettere. Già extraparlamentare di sinistra in odore di terrorismo negli anni 70, come i più svegli di quella cucciolata rivoluzionaria, si è defilato per tempo e si è reinvestito nell'accademia, senza nemmeno dover troppo rinnegare le sue idee. Anzi, ancora oggi si arrabbia se dicono che è di sinistra. «Io sono comunista, non di sinistra», ribatte. E a volte si dichiara, un po' per posa, maoista o perfino stalinista. Detto questo, io di Sacrosanti ho un ottimo ricordo. È uno che ha studiato tutta la vita e che ha capito le cose che studiava. A lezione era un po' teatrale, ma molto godibile e perfino disponibile al confronto. Tra le altre cose, è uno di quelli che non fa fare lezione agli assistenti e che cambia argomento del corso ogni anno a seconda di quello su cui sta lavorando. Insomma, tanto di cappello. Il suo tallone d'Achille, tuttavia, è il godimento quasi erotico che trae dai rapporti di potere accademici. Lo ha sempre perseguito il potere, a maggior ragione da quando è diventato preside della facoltà di lettere. È capace di paralizzare l'intero dipartimento di italianistica se non si affida l'insegnamento a contratto a chi dice lui, di impedire che qualcuno vada a fare il visiting professor in America se non si invita il suo tale amico a tenere una lectio magistralis, o di boicottare un ordinariato se non gli si lasciano 2 posti di dottorato su 4 disponibili. L'ultima fattispecie si è appena verificata. Quest'anno toccano 2 borse a italianistica, che poi andranno una a italianistica e l'altra a teoria della letteratura, entrambi gli insegnamenti facenti capo a lui, una a storia del cinema e del teatro, per cui ci sarà a posteriori uno scontro fratricida tra la fazione teatro e la fazione cinema all'interno del DAMS di Firenze, e l'ultima a storia moderna, che è già predestinata a uno studente della normale, un 23enne che ha all'attivo una citatissima monografia sull'economia nel 600 e che è stato ringraziato da Carlo Ginzburg nel suo ultimo saggio. E quelli di Sacrosanti? Si sanno già? Chiedo a Carlo. Lui sorride. Si capisce che un po' della libido nel distribuire prebende è passata in eredità anche a lui, che dei sacrosantiani è uno dei rampolli più stimati dal chiarissimo. Raffaele dice di no, ma questo fa parte del gioco. Stavolta però è vero che non ci sono nomi per cui sia disposto a battersi a morte. Raffaele è il nome di battesimo di Sacrosanti, appannaggio esclusivo di un cerchio magico di cui Carlo si è ampiamente meritato una delle tessere onorarie in virtù di un quindicennio di collaborazione non necessariamente retribuita. E allora perché ha voluto due borse? Carlo si stringe nelle spalle. Forse è perfino un po' spiazzato da una domanda così naif. Poi mi dà una risposta che nelle sue intenzioni dovrebbe chiarirmi la situazione. Fra pochi anni va in pensione. Io replico con uno dei miei sguardi bovini. Sì, insomma, prova a spiegarmi. Sono gli ultimi colpi. Se vuole un altro allievo, lo deve prendere adesso. E vuoi dire che non c'è nessuno di cooptato? Non ho detto che non c'è nessuno. Ho detto che i giochi sono ancora aperti. Se non che, lo invito a estrarre il coniglio dal cilindro, lui mi mostra un foglietto, nomi e numeri. Lì per lì non capisco. Poi, all'improvviso, mi ricordo. Carlo è una specie di allibratore e mi sta mostrando le quote a cui dà i concorrenti al dottorato. La lista non è completa, dato che le iscrizioni sono ancora aperte, e quindi anche le quotazioni sono passibili di modifica. Metti che si presenta un Mamma Santissima, è chiaro che quello lo do a 1 e 2 e gli altri salgono un po'. Però, se vuoi scommettere, adesso le quotazioni sono queste. Valerio Aprea ha letto La ricreazione è finita di Dario Ferrari, a cura di Fabiana Carobolante, con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Jacopo De Bertoldi. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.